che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su I colori dell'anima. Buonasera a tutti amici radioascoltatori di Radio Alma. Oggi siamo in diretta dal Centre de Maison de Culture de Saint-Gilles ed è la puntata del 2 dicembre. Qui con me c'è Tiziana. Buonasera, buonasera. E Leandro. Buonasera ragazzi, ciao a tutti. Yuhu, eccoci, eccoci, siamo tornati con voi ragazzi. Questa sera diciamo fa un po' freddo, finalmente è arrivato l'inverno a Bruxelles. A me sinceramente Tizia un po' mi stava mancando l'inverno. Eh sì, che freddo. Ma sì, ma che insomma, ma dai, era novembre. Stavo bene pure quando c'era qualche grado in più. Bah, sarà che io mi sto proprio europeizzando, sto diventando una nordica, una siciliana nordica. Babbo. Ma io comunque sempre il sole voglio. Anzi, oggi e ieri sono state due belle giornate, ci accontentiamo, siamo contenti, però dai, i mercatini di Natale vanno visti un po' con col freddo. Dai, ora cominciano. Se no, vabbè, dicembre. Se non avete capito, io volevo parlare del vino caldo, ecco. Il vin brulè è fantastico. Eccoci, sì, sì. E quindi, che parliamo questa sera, Tiziana? Entriamo nei salottini dei nostri radioascoltatori. Sì. Speriamo che ci state ascoltando in tanti, anzi, ripetiamo subito come potete contattarci. Vi do i numeri di telefono, ci potete chiamare da Bruxelles al numero fisso 02345 2656, oppure potete scriverci sulla nostra pagina Facebook Rossella, Tiziana e Leandro on air, o ancora mandare un SMS al numero 04869 41129. E non è finita qui, per chi volesse chiamarci dall'Italia basta mettere il prefisso 0032 234 2656. Quindi ragazzi fatevi sentire, perché questa sera ne vedremo proprio delle belle. Sì, io ho l'impressione questa sera abbiamo una puntata interessantissima e divertentissima che penso coinvolga tutti, no, nessuno escluso, ognuno si riscontrerà in qualcosa che diremo e potrà dire la sua, potrà controbattere oppure essere d'accordo. Esatto, quindi fatevi sentire tutti quanti, tutte. Oggi di che cosa si parla? Di che cosa si parla oggi? Parliamo di un tema che sta a cuore a tutti, penso. Mm-hmm. Parliamo di uomini e donne. Uomini e donne? Uomini e donne. Ok, a me questo tema mi interessa. Tema particolare, tema speciale, perché lo trattiamo a modo nostro. Parliamo delle differenze tra uomini e donne. Mm. Parliamo delle... cos'è questo musica? Arriva un cubanito! Arriva la musica cubana. Vabbè, ecco, vi porteremo a Cuba anche con i pensieri, parlando di uomini e donne, perché lì ce ne sono di uomini e donne molto speciali e molto particolari. Ma dai, lasciamo stare Cuba, parliamo del nostro tema. Leandro, che... ah, eccolo! Woohoo! Uomini e donne, giusto? Ma come no? Maria De Filippi, sta ferma! Che entrino i cronisti! No, i tronisti! I tronisti, i tronisti! Dai, avanti, avanti! Ma ragazzi, ma che dite? Ma che, la tizia, state che zitta! Aprite la porta, fateli entrare, Leandro, fateli entrare! Fammi parlare, fammi questa bene, musica! Dai. Rossella, rientra in te! Scusate! Ma che cosa state dicendo? Stavo dicendo che noi parliamo di uomini e donne, ma che c'entra Maria De Filippi, ragazzi? Botta, chi è che non se lo vedeva uomini e donne? Ma per favore. Con quelle discorsi facciamo, interessantissimi. Ma noi facciamo delle cose serie. Ah, non cominciamo. Noi parliamo di uomini e donne, d'accordo, però lo facciamo a modo nostro, lo facciamo alla maniera dei colori dell'anima. Gli amici che ci seguono sanno bene che qui ai colori dell'anima noi cerchiamo sempre di raccontare una storia, di parlare di temi o di storie di persone che possano mettere in luce i diversi aspetti dell'animo umano. Esatto. Le diverse sfumature che può assumere l'animo umano. E questa volta lo vogliamo fare parlando di un tema più generale, un tema che interessa a tutti. Esatto, parleremo un po' delle differenze tra gli uomini e le donne, e lo faremo con due super ospiti in studio. Sì, non lo facciamo certo da soli. Che ne hanno tante da dirci, però... Rossella, trattieniti, mi trattengo. Non vogliamo svelare niente, mi raccomando, non te lo fare sfuggire, perché questo è un qualcosa che teniamo nascosto per il momento. Va bene, allora ragazzi... Insomma, abbiamo capito, questa sarà una puntata speciale dove parleremo di uomini e donne. Insomma, noi uomini vogliamo delle donne vere. Voglio una donna con la gonna. E allora partiamo con il grande Vecchioni, dai! Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. E allora buonasera amici radioascoltatori, eccoci tornati ai colori dell'anima. Come dicevamo, parliamo di uomini e donne e siamo con Rossella. Ciao a tutti, che questa sera sono tecnologica, questa sera ragazzi sono io sul computer e quindi adesso interagisco con tutti. Fatevi sentire, perché Rossella è in attesa dei vostri messaggi su Facebook. E arrivano subito, però le devo trovare perché sono troppo tecnologica, io un attimo soltanto. Rossella, non ci facciamo riconoscere come al solito, com'è possibile? Allora, dicevamo che parleremo di uomini e donne, che abbiamo due ospiti. Iniziamo a svelare qualcosa. Si tratta di una coppia di amici, una coppia che ha tanto da raccontare, quindi è proprio adatta per il tema della serata. Rossella, eccoci. Allora, presenta lei e io presento lui, dai. Benissimo. Allora, questa sera abbiamo con noi la signora Chiara. Buonasera. E il signor Matteo. Ciao a tutti. Allora, due grandi amici dei colori dell'anima. Ciao ragazzi. Ciao Leandro. Ciao. Amici nostri con cui condividiamo tante cose e che hanno una bellissima storia, si sono sposati da poco, ma lasciamolo dire a loro, su. Allora, raccontatevi un po', diteci un po' chi siete e in breve fateci un sunto della vostra storia. Inizia la donna per cavalleria, allora. A noi ci piace. Ciao a tutti, sono Chiara, sono nata sul Lago d'Orta e ve lo dico perché ci siamo sposati 3 mesi fa esatti, più un giorno, sul Lago d'Orta. Alcuni amici dei colori dell'anima lo sanno molto bene. Lo sappiamo. Un bellissimo matrimonio, spettacolare. Sono stati parte di questo giorno molto speciale per noi, insomma molto unico, anzi unico proprio nella vita. Mancherebbe altro. Esatto, condivido ecco, con l'uomo, se vedete. Forse perché siamo ancora 3 mesi dal matrimonio, non lo voglio dire, però speriamo di no. Speriamo che anche tra tanti anni potrete dire lo stesso. Comunque, insomma, sono arrivata a Bruxelles 4 anni fa, ormai il tempo passa molto rapidamente, era il 1 gennaio 2010, e sono venuta qua per raggiungere Matteo, che era qua da un po' più a lungo, venendo da Parigi. Quindi, insomma, tra una capitale e l'altra, tra la capitale francese e la capitale europea, ci si sposta anche per amore. Bene, bene, bene. Matteo, cosa ci dice? Cosa ci racconta? Ciao a tutti. Sì, è vero quello che ha detto Chiara, solo che noi ci siamo visti prima. Sempre sì, Matteo, dici sempre sì. Sempre sì, è la cosa migliore con le mogli, sempre secondarle. No, la nostra... E già entriamo nel tema della serata. Tensione. Che non sono d'accordo. Bruxelles è stata la città dell'amore per noi, perché ci siamo incontrati ben 6 anni fa ormai, quasi, sì, 6 anni fa, qua a Bruxelles, e eravamo tutti e due alla fine dei nostri studi, e praticamente in una serata fredda come questa, anche se era d'ottobre, ci siamo incontrati per la prima volta, e da lì, con lo spunto che dovevo andare a Parigi, dove lei in quel momento viveva, in realtà era a Bruxelles per un periodo molto breve, e quindi avevo colto l'occasione per dirle se ci potevamo rivedere, perché mi era interessato parlare con lei, volevo un po' sviluppare questa conoscenza. Quindi hai fatto di tutto per conquistarla. Sì, abbastanza, insomma, è stato abbastanza normale. Che per la prima cosa mi ha chiesto il numero di telefono e non ho potuto rifiutare, perché insomma dovevo dargli delle dritte. Così, a bruciapelo, con la scusa. Ho capito. Ah, quindi questa è una tattica, trovi una scusa, certo, mi sembra giusto. Più che una scusa valida, comunque dovevo proprio andare da lì a 3 settimane a Parigi, quindi l'unica persona che avevo incontrato in tutta Bruxelles che abitava a Parigi poteva darmi delle dritte. Meglio di così non si poteva. Mi piaceva, era anche una ragazza molto, molto carina, quindi ho detto... Cogliamo l'occasione, perché abbiamo l'utile al direttevole. Vai Matteo Marpione. Le tre settimane successive non ha passato tutto il tempo a tirarmi i bidoni prima di incontrarmi. Tipico femminile, infatti. Allora, io prendo appunti nel frattempo, perché dovete sapere che sono con 2 coppie, quindi qui. Allora, va bene. Salutiamo un attimo gli amici che ci seguono da Facebook. Ciao. Abbiamo la famiglia Capobianco. Ciao Michelangelo, ciao Elena. Ciao ragazzi. Abbiamo Erika di Cesare che ci sta seguendo, abbiamo Sorina, l'ospite della scorsa puntata, che tra l'altro... Ciao Sorina! Chiara ci Ciao, diceva Sorina. Che è proprio piaciuta la canzone del Ligabue rumeno, quindi... Esatto, fenomenale, brava Sorina! Bravi ragazzi, continuateci a seguire! E continuate a interagire con noi, abbiamo bisogno dei vostri feedback, questa non è una trasmissione a senso unico, abbiamo bisogno di parlare, di discutere... Esatto, perché vogliamo andare adesso un po' sull'argomento, andiamo un po' più al sodo, no? Parliamo delle differenze tra gli uomini e donne. Perché abbiamo preso questo spunto da questo libro che Tiziana ci ha consigliato, che ti lascio adesso presentare, che è veramente un libro da leggere. Sì, davvero. Io l'ho letto un bel po' di anni fa, l'ho ripreso in altri momenti della mia vita, ho riletto qualcosina e mi è sembrato perfetto per affrontare questo argomento. Si chiama Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere, di John Gray. E questo per dire che noi siamo dei marziani. Telefono a casa. E noi delle Veneri. Delle venusiane, yes, delle Veneri. Parla e affronta l'argomento della differenza tra uomini e donne, che è più che risaputa. Questo argomento viene affrontato da questo specialista che si occupa proprio di... Sì, fa terapie di coppia, leggevo... Sì, quindi è una persona molto seria, sì, che affronta l'argomento in modo molto serio, ma tramite questo libro racconta quali sono i tipici problemi che... Si vengono a incontrare in una coppia in modo molto molto simpatico. Infatti racconta, il libro viene introdotto raccontando racconta del fatto che inizialmente gli uomini e le donne vivevano su 2 mondi differenti. Le venusiane vivevano su Venere, i marziani su Marte, ed erano più che felici di stare per i fatti loro. Non si conoscevano e tutto andava benissimo. Poi hanno inventato il telescopio ed è finito. A un certo punto però questa lontananza non funzionava, cioè le venusiane da sole non avevano non più sapevano stimoli, con chi si stavano parlare. Annoiando, non sapevano con chi parlare, i marziani stessa cosa, erano rinchiusi nelle loro caverne e la cosa non funzionava, al che appunto i venusiani e i marziani hanno inventato il telescopio e hanno scoperto che esisteva un altro pianeta con delle bellissime donne di cui si sono innamorate. E quindi chicco ricco mi ci ficco. Perfetto, quindi hanno costruito una navicella spaziale e sono andati sul pianeta delle venusiane, esatto. Sono andati su Venere. E quindi all'inizio praticamente uomini e donne si ricordavano molto bene che venivano da 2 pianeti diversi, quindi le donne sapevano che loro erano dei marziani e i marziani quando interagivano con le donne sapevano che loro erano venusiane. Quindi, e lo prendevano in considerazione, esatto, nella loro comunicazione, ed erano anzi interessati dalle differenze, era una scoperta, era bello scoprirsi pian piano, capire capire quali erano le differenze. Comunicavano molto bene, perché tutte le volte che non riuscivano a capirsi, sapevano benissimo che stavano parlando due linguaggi differenti, e quindi non... la motivazione era quella, ma la volontà c'era da entrambe le parti di venirsi incontro. Esatto. E poi quindi, cosa successe? E poi a un certo punto, così, di punto in bianco, sono iniziati i problemi. I vecchi, la carissima famiglia Vianello, chi non se lo ricorda? Sì, a un certo punto iniziano le incomprensioni, perché ecco, ci si dimentica che si è diversi, e le incomprensioni diventano in realtà pane dei quotidiano. Problemi. E diventano dei problemi. Sì, diventa... Facciamo, cominciamo, andiamo un po' al sodo del libro, perché io ho trovato che è veramente molto interessante, ci sono degli esempi molto simpatici. Ad esempio, leggevo, mi incuriosiva, ecco, quello che dicevo prima, il fatto che le donne sentono sempre questa necessità di parlare, di condividere. Questa voglia di esprimersi, questa necessità di raccontare i loro problemi, anche se non hanno soluzione, no. Anche se non c'è motivo di raccontarli, perché alla fine non ottengono nulla. Dai, è così bello parlare, ci piace a noi parlare, a me piace molto, sono sicura che le ragazze in studio concordano. E invece gli uomini non sono così vogliosi di parlare, anzi sono così un po' più silenziosi. Io direi che gli uomini sono disposti a parlare, a discutere di qualcosa, ma quando c'è una soluzione al problema, quando bisogna discutere di una cosa, perché bisogna risolverla. Quindi qual è il problema? Quando vedono che c'è un problema da risolvere, quando c'è qualcosa di rotto che si deve aggiustare, non qualcosa che funziona e che si deve migliorare. Ragazzi, insomma, qua abbiamo un problema grosso. Chiediamolo ai nostri amici in studio. A voi vi capita, ad esempio, raccontateci un po' che ne pensate. Io prego, Matteo, dici. Beh, generalmente l'abitudine è che quando io rientro a casa aspetto Chiara che arriva, perché io sono un po' più vicino, il mio lavoro non è molto distante da casa. Lei rientra, quello che fa quando rientra è generalmente raccontarmi tutte le 8 ore della giornata per altre 8 ore circa. E tu? Quindi occupa principalmente... Mi riscontri in questa descrizione. Arriva a mezzanotte e poi si va a dormire. Forse per le 23 mi chiede, ma però parentesi, tu cos'è che hai fatto oggi? Ma non ci credo che Chiara non è interessata, no, però sente... Ecco, è la serata della compassione. Chiara, non è che non sia interessata, ecco. È semplicemente perché le accadono tantissime cose, quindi giustamente tutto vuole quello venderti. Che le accade, anche ogni singolo minuto deve raccontarmelo, che sia un problema o che non sia un problema, questo non è importante. Certo. E Chiara, come reagisce Matteo? No, perché le donne vivono tutto con grande intensità e quindi dobbiamo riprodurre questo sentimento. No, io volevo dire un'altra cosa rispetto a quello che avete detto, parlare, essere un po' logorroiche. Io devo dire che la prima volta che ci siamo incontrati, che mi ha portato fuori, abbiamo camminato per circa 6 ore. Per chi conosce Bruxelles, da Place du Luxembourg fino alla Grand Place, e poi siamo ritornati indietro, poi abbiamo camminato ancora, insomma faceva freddo ma non ce ne siamo accorti. Devo dire che la prima sera che ci siamo incontrati lui ha parlato moltissimo di tutto, di Europa, di Iran, me lo ricordo ancora il discorso sull'Iran. Allora sarà per questo che ti ha conquistato poi, ti ha fregato. E quindi mi era retto. Uno stress test, volevo verificare che la pazienza dell'interlocutrice fosse sufficiente per garantirmi un lungo cammino insieme, e quindi di fatto mi sopportasse abbastanza. Difatti, ma forse anche perché praticamente quello che sono le caratteristiche dell'uomo è la solidità, la responsabilità, il fatto di essere una persona preparata in quello che fa, e quindi sono tutte doti che affascinano una donna, e questo sicuramente ha aiutato il buon Matteo. Quando io parlo di calcio non è molto affascinante, però. No, sicuramente non hai parlato di calcio cose. Quando l'hai conosciuta, sono sicuro di no, questo. No, parlato di altre cose. Anche perché sennò lei ti chiedeva di tutti i calciatori, da sicuro. Tipo che diceva Buffon chi? Il buffo di corte, sì. No, è vero, però lo stress test l'hai fatto sul bene. Ho parlato per tanto tempo, lei ha parlato per tanto tempo, ci sopportiamo. Ottima cosa. Buono. Questo è un passo, guarda che non è da poco. È una cosa importante, perché secondo me è importante poi nella coppia riuscire a mantenere la comunicazione, riuscire per l'uomo ad ascoltare, a capire questo piccolo dettaglio, che la donna ha bisogno di parlare e di sentirsi ascoltata. Ma questo è un piccolo dettaglio proprio, un piccolo. piccolo. Piccolo Leandro, dettaglio. Questa sera lo vediamo molto interattivo. Leandro, si sente preso in... Carusi. Si sente chiamato in causa. Carusi. Prego, Leandro. No, io ecco, mi sa che mi è venuta voglia di ascoltare una bella canzone sentendo tutta questa bella discussione. Proprio perché le donne sono così, devono parlare, devono esprimere i propri sentimenti. Gli uomini invece sono lì, duri, che ascoltano e danno le soluzioni e non piangono mai. E allora così vi lascio con questa bella canzone dei Cure, Boys Don't Cry. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. E allora, bentornati amici radioascoltatori, siamo qui a Radio Alma, i colori dell'anima. Oggi si parla di uomini e donne, delle differenze tra uomini e donne, quanto sono due mondi a sé che però vedremo che alla fine si completano. È vero, Tiziana, io volevo prendere l'occasione per ricordarvi i numeri di telefono, ragazzi, la pagina Facebook Rossella Leandro e Tiziano Neir, oppure il numero di telefono 02 345 2656. Fatevi sentire. E vorrei ancora salutare Angelo Gregorio, che mi scuso non ho salutato prima, ciao Angelo. E poi volevo anche salutare Elena e Michelangelo, che in realtà hanno un messaggio per voi due, ragazzi. Dicono: Matteo, Chiara, ognuno deve prendere il suo spazio e ognuno ha i suoi compiti, mai due in cucina. Qui capisco. Bravo, che c'è qui, esperienza vissuta. Vogliamo sapere i particolari di questa, qui, che cosa è successo in questa cucina. Beh, in effetti è vero, adesso che abbiamo cambiato casa abbiamo una cucina molto grande a cui ci si può approcciare da quattro parti, perché c'è un'isola. Però nonostante tutto, essendo due italiani, uomo o donna poco importa, visto che siamo una coppia moderna, tutti e due cuciniamo. E in effetti, ben condividendo i gusti e i sapori italiani, molto spesso chi cucina fa tutto. L'altro al limite ha il diritto di mettere tovaglie e di lavare i piatti. Ma fondamentalmente lei comanda sempre. No, è un processo molto individuale, devo dire. Ma io non ci credo che Chiara comanda, perché ecco, diciamocelo, noi donne ci piace dettare un po' legge, vogliamo dare le nostre opinioni, i nostri consigli, sì, no? Noi mettiamo sempre bocca su tutto, diciamolo pure. E anzi, direi pure che il nostro John Gray ci azzecca proprio quando ci parla nel suo libro del fatto che le donne a un certo punto istituiscono il comitato per il miglioramento della casa. In sostanza si rendono conto, e proprio per indole naturale, gli viene... lo fanno per amore sicuramente, però gli viene veramente naturale. Sì, sentono questo istinto di dare il proprio parere. Sentono questo istinto di dare il proprio parere, di iniziare a dare consigli su qualcosa che non è richiesto. Ma le donne devono migliorare sempre qualcosa. Loro fanno parte, istituiscono il comitato del miglioramento, leggevo sul libro e mi è piaciuto proprio tanto questa espressione. Sì, il comitato del miglioramento della casa è fantastico. Sì, ma che in realtà, guarda, più che miglioramento della casa è il miglioramento dell'uomo, diciamo. Vabbè, sì, che chi c'è nella casa? Hai messo le pattine quando entri in casa, hai tirato giù la tavoletta del cesso, hai fatto tutte queste cose, hai levato le mani prima di venire a tavola, ti sei lavato i denti. Attenzione, ho appena pulito il bagno, non fare pipì. Esatto. Lo sappiamo, cari uomini, lo sappiamo. Ma questo ci piace raccontare ai nostri radioascoltatori, perché ecco... D'altro canto però, no, anche gli uomini qualche volta fanno qualcosa che può veramente innervosire le donne. No, per esempio quando loro incominciano a parlare di un problema, e allora sono stanche, sono agitate, hanno bisogno di conforto, allora ecco, vogliono sfogarsi, si sfogano e cominciano a raccontare, allora l'uomo dice, si prende il cappello del signore, aggiusto tutto io e dà i suoi geniali pareri per risolvere la situazione. Non che non saranno praticamente nulla, perché tante volte... Perché tutto vuole la donna, tranne che delle soluzioni, vuole qualcuno che l'ascolta. E l'uomo quando dice, tu non mi ascolti, quando la donna le fa, rimane interdetto, giustamente. E io ti sto ascoltando, giustamente, dice. Insomma, venusiani e marziani siamo veramente diversi. Quindi ragazzi, quando voi che siete le coppie, cerchiamo di capirci, no? Quindi Chiara vuole dire, vuole renderti partecipe, Matteo. Sì, però, cominciamo, ecco, bene. Io metterei i puntini sulle i. Le donne devono comprendere che nella natura intrinseca dell'uomo, quando sta facendo qualcos'altro, per esempio guardando la televisione, giocando a qualche gioco sul computer o qualsiasi altra cosa, non soprattutto sentono... giochi al computer, sottolineo. Mediamente l'apparato uditivo è praticamente sordo a qualsiasi voce input femminile esterno che raggiunge il timpano, e quindi è assolutamente inutile proporre, continuare a fare consigli, eccetera. Direi che la cosa peggiore è quando tu dici all'uomo qualcosa e lui ti risponde di sì, Tiziana, ma non ti ha ascoltato minimamente. Non ti ha ascoltato minimamente, non ha sentito una parola, e dopo ti dirà pure che tu non gli hai parlato, non gliel'hai detta quella cosa, ma lui ti ha pure risposto. Allora sì, lì davanti, quasi riscalda l'aria. Mettiamo, ragazzi, un'altra musichetta di Vianello. Sono d'accordissimo su questo punto. Ecco, grazie Leandro. Ma risalutiamo Elena e Michelangelo, che questa sera sono anche loro on fire. I ragazzi dicono: non dimenticare di cambiare l'aria a casa, pure a meno 10 gradi. Così si prende il raffreddore, Michelangelo, sì, ne so qualcosa. Però almeno la casa rimane pulita e senza odori. È bella profumata. Stamattina mi sono svegliata pronto con la radio che diceva che bisogna sempre areare la casa, perché almeno 15 minuti. Ci sono gli acari che si annidano nel letto. Maronna mia, quando apro sta finestra che entra un po' di pinguini. Dipende da dove vivi, se in foresta va bene, in centro città è vero, perché adesso voi siete andati a abitare un po' fuori, quindi siete un po' nella vostra tana, nel vostro nido. Sì, sì, no? Un villaggio completamente immerso nel verde, non sembra neanche Bruxelles, è a metà fra Bruxelles e la foresta praticamente, ci sono ancora le volpi, gli scoiattoli che scorrazzano nel nostro giardino. Ma che meraviglia. Ma che paesaggio bucolico. Senti, allora ricominciamo a sentire un po' di canzoni, e dato che proprio mi sa che capita a Fagiuolo, allora il grande Elio e le storie tese con Cara, ti amo. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su, i colori dell'anima. Ed eccoci tornati, amici radioascoltatori, siamo qui ai colori dell'anima, stiamo parlando di uomini e donne. Ricordiamo un attimo i numeri per interagire. Fatevi con noi sentire, ragazzi, abbiamo una trasmissione veramente scoppiettante oggi. Bum, bum, possiamo dirlo forte. È una trasmissione che parla un po' di tutti, nessuno si può sentire escluso in una discussione del genere. Allora, interagite con noi e scriveteci e telefonateci, scusate, dall'Italia allo 0 al più 32 se chiamate dall'Italia, 234-2656, oppure potete scriverci sms allo 0486-941129, o ancora potete scriverci direttamente sulla nostra pagina Facebook, al giorno d'oggi è molto più semplice per tutti, Tiziana, Rossella Tiziana e Leandro On Air. Yeah, grazie Tiziana per averci ricordato i contatti. Ed eccoci, quindi parlavamo di uomini e donne, delle incomprensioni che spesso sorgono perché appunto siamo diversi, dei momenti un po' difficili da superare. E allora, chissà, che ne pensate di superare queste divergenze magari attraverso un viaggio? Perché abbiamo in collegamento con noi una persona veramente speciale. Buonasera. Pronto, Serena, ci sei? Sì, ci sono, eccomi, ciao. Allora, vi presento a tutti Serena Ferti, è la nostra ufficiale travel blogger che ha il suo sito internet, è una ragazza che ha fatto del suo hobby una vera e propria passione. Serena, dici un po', che cos'è questo travel blogger? Il travel blogger è innanzitutto un appassionato di viaggi che ha intenzione di condividerli con le altre persone tramite appunto un blog. Quindi insomma un po' la passione per la scrittura, per le fotografie e nello stesso tempo appunto Esatto. Quindi viaggio in Lamponia. Serena, forse noi ti sentiamo un po'. Serena, noi ti sentiamo un po' male, speriamo che chi ci ascolta ti riesca a sentire. Tanto ragazzi, ad ogni modo, tutto quello che ci racconta Serena viene messo il link sulla pagina Rossella Leandro e Tiziano On Air, quindi potete trovare tutti i riferimenti, perché questa sera Serena ci proporrà innanzitutto un bel viaggio, un posto così insolito, un po' romantico. Serena, dove ci porti? Mi porterei in un piccolo borgo marinaro della mia regione, appunto la Liguria. Guarda Serena, purtroppo il contatto è veramente disturbato. Faccio una cosa, provo a richiamarti e vediamo se si sente meglio, va bene? Intanto ragazze, andiamo avanti. Ci sentiamo dopo, Serena. Ragazzi, questo è il bello della diretta. Riproviamo a ristabilire il contatto con Serena tra poco. Ma abbiamo in studio Chiara e Matteo. Chiara. Beh, scusate, allora prendiamo il relais, visto che si parlava di viaggi e che siamo in un periodo abbastanza romantico, direi, dopo il matrimonio. Fra 4 giorni partiamo in Argentina. Diteci qualcosa, dai. Non so se è una destinazione abbastanza romantica, perché sarà più trekking piuttosto che spiagge e sole, però insomma siamo contenti. Ma andrete a ballare il tango. Perché i ragazzi sono appassionati di tango. Qualche lezione l'abbiamo presa anche noi, insomma. Però sfigureremo un po' davanti ai professionisti argentini, facciamo il minimo indispensabile da questo punto di vista. No, non ci credo, perché vi ho già visti ballare, quindi so che siete molto bravi. L'importante è la passione. Esatto. Ma avete già fatto degli altri viaggi insieme? Perché ad esempio, secondo me il viaggio è una di quelle occasioni in cui due persone si conoscono veramente più a fondo, perché una cosa è vivere la coppia nel luogo in cui si abita, con le amicizie con le solite routine e abitudini. Una cosa invece è poi partire, andare in un posto nuovo, imbattersi in cose, ecco, insolite. Lì che succede? Che lì tiene la coppia, secondo me? Che ne dite voi? Ma nei primi 2 anni che siamo rimasti assieme, di fatto eravamo delle specie di travel lovers, ci potrei All dire, right. Perché eravamo sempre in giro, abbiamo visitato tantissime città in Europa e veramente abbiamo scoperto tantissimi paesi, uno dopo l'altro. Siamo andati in angoli reconditi, tipo Manchester, Liverpool, dove non è necessariamente molto romantico. Dove immagino che ti abbiano chiesto perché. Ma era questo il bello, perché quando ti trovi in una città, cominci a scoprirla e la scopri assieme e ti scopri anche come coppia. E quindi riesci a fare dei viaggi, delle passeggiate più o meno romantiche, più o meno di scoperta anche interiore, perché poi hai tanto tempo, stai passeggiando, chiacchieri, vai in un bar, chiacchieri ancora. Quindi si può parlare, esatto, si può discutere, tantissimo. C'è il tempo, non Benissimo. Si corre come al solito. Abbiamo infatti ristabilito il nostro collegamento con la nostra esperta di viaggi. Pronto Serena, ci sei? Sì, è come mi sentite ora. Adesso sì. Ti sentiamo alla grande, Serena. Benissimo. Eccoci Serena, eccoci. Senti, allora, ci stavi proponendo questo luogo romantico, dove ci porti? Sì, appunto vi stavo proponendo un luogo in Liguria, un piccolo borgo marinaro, vicino insomma alle più famose, per esempio Cinque Terre, Porto Venere, Lerici, che insomma sì, sono veramente meravigliose. Questo è meno conosciuto, ma è secondo me qualcosa veramente di magico, soprattutto per una coppia. È proprio un borghetto che si trova su una scogliera a picco sul mare, sul golfo appunto della Spezia, che incantò addirittura insomma poeti e scrittori come Lawrence, Byron, Shelley e Mario Soldati, addirittura finì insomma tutta l'ultima fase della sua vita proprio qui a Pellaro. Praticamente qual è il fascino poi di questo piccolo paesino? Sono proprio queste viette che portano al mare e che ogni tanto si aprono su delle terrazze incredibili, appunto, che danno l'impressione di essere su una nave, insomma. È un posto splendido per una coppia. Oltretutto, se prego. Dire. Pronto? Sì. Dite? Sì, caro. C'è anche una leggenda, insomma, molto simpatica su Tellaro, che è quella del polpo campanaro. Non so se ne avete mai sentito parlare. No, mai. Sapere, ma che cosa? No, leggenda del polpo campanaro. Praticamente nel Medioevo, durante un attacco di pirati saraceni, insomma, si dice che un polpo andò a suonare le campane della chiesa per svegliare gli abitanti e avvertirli dell'imminente pericolo. E quindi, insomma, Tellaro, insomma, ruota intorno anche a questa figura del polpo, che è un po' un paladino del paese. La cosa curiosa però è che c'è una sagra proprio dove si mangia poi. E certo, ma invece non hanno ancora pensato a fare una rotonda con un polipo enorme in mezzo? L'Italia alla fine dei mondiali, mangiando e inneggiando alla fine polpo anche in questo modo. Serena, senti, io devo dire che ho pestato già il link sulla nostra pagina, e se andate sul link potete appunto andare a vedere alcune foto di questo paesino meraviglioso che diceva Serena, che ci sono veramente degli scorci incantevoli, quindi veramente un posto molto romantico, e tra l'altro ci sono tutti i consigli per dove mangiare, dove dormire, quindi se si vuole fare una piccola gita in Liguria, la scoperta di un posto così insolito, è veramente un bel suggerimento, Serena. Soprattutto se volete andare con la vostra compagna o col vostro compagno. Sì, oltretutto ci sono delle spiaggette a fianco poco, cioè note insomma ai locali, però chi non è appunto del posto poco note, si chiamano spiaggette di Fiascherino, che sono veramente bellissime, piccole, ma tra il mare e la vegetazione tipica ligure con i suoi profumi, insomma, veramente per una coppietta, è un posto piccolo e bello da visitare soprattutto in primavera oppure in tardo autunno, comunque stagioni non affollatissime. Senti, che bello, Serena, ma invece dici un'altra cosa, no? Perché adesso ci ha fatto venire voglia di romanticismo con tutto questi, descrivendoci questi posti incantevoli, queste spiaggette così nascoste. Io so che tu hai qualche bel consiglio da darci se una coppia, ad esempio, vuole passare una notte un po' speciale, oppure vuole fare un'occasione un po' unica, vuole festeggiare un'occasione un po' unica, che cosa può fare? Eh sì, diciamo che c'è qualche idea divertente, insomma, in giro per il mondo. Anzitutto, vabbè, in Italia, per esempio, la casa sull'albero. In questo caso siamo in una nella mare marziale, quindi ci sono praticamente delle piccole casette che poi sono delle suite perché sono meravigliose, su un campo di lavanda e un oliveto secolare, insomma, con 18.000 piante. Esatto, ci sono le foto sul blog di Serena, quindi vi invito subito. Allora, casa sull'albero in mezzo alla lavanda. Poi, opzione numero 2. Opzione numero 2 è un igloo in Svizzera. Wow. Un igloo per riscaldarsi in una vasca idromassaggio ad alte temperature, mangiare fonduta per cena. E che meraviglia. Numero 3? La numero 3 è la casa sull'acqua, oppure un gypsy caravan in una regione nella regione centro della Francia, in mezzo al bosco, quindi insomma per una vacanza a tutta natura, insomma escursioni sull'asino, si possono addirittura organizzare matrimoni, insomma, in questo luogo paradisiaco che è a un'ora e mezzo da Parigi poi. Ah, vicino. Io ce l'ho il camper, se vuoi Matteo partiamo. Ecco, parte la proposta. Senti Serena, che belle idee che ci hai dato, però dici ce n'è ancora un'altra, perché io ho già sbirciato sul tuo blog Viaggio in Lamponia e ho visto che hai quest'altro suggerimento, questa gita nell'aria, questo bacio esatto. Nell'aria. L'ultima mia proposta è un volo in mongolfiera al tramonto. E in questo caso si può fare o a Stoccolma, che è una delle città insomma in cui è più semplice appunto farsi un giro in mongolfiera, perché appunto c'è la possibilità di visitarla in questo modo, oppure a Ferrara, c'è proprio un festival dedicato alla mongolfiera nel mese di settembre, quindi anche in questo caso è possibile prenotarsi un'escursione al tramonto nei cieli. Oh, che meraviglia! Può essere invertita, quindi una volta che siete sopra non c'è via di scappare. O si sale e poi non si scende più. Grazie Serena, sei stata gentilissima. Ti ringraziamo. Ricordiamo ancora il tuo blog Viaggio in Lamponia, e trovate tutto sulla nostra pagina Facebook. Ciao Serena, grazie ancora. Ciao Serena, ciao. Grazie ancora, presto, ciao. Wow ragazzi, che voglia, benvenuta. Ma invece torniamo in studio, torniamo con i nostri ospiti. Allora, Chiara, Matteo, la puntata volge al termine. Allora, innanzitutto non ci dimentichiamo che la puntata si chiama, come al solito, I colori dell'anima. Quindi dobbiamo assegnare un colore alla nostra puntata. Proposte? Beh, io direi il rosso fuoco. Rosso fuoco? Ah, non l'avrei detto. Io avrei detto rosso e azzurro, però rosso fuoco mi piace. Troppo, mi piace pure a me rosso fuoco. Leandro, trattieniti. Aiuto. Il tramonto rosso. Beh, però devo dire che i consigli di Serena sono stati interessantissimi e il viaggio in mongolfiera noi l'abbiamo fatto nella nostra prima luna di miele in Turchia, all'alba. Cappadocia. Bellissimo. Consiglio a tutti di farla, che è un'esperienza meravigliosa, soprattutto all'alba. Il risveglio è un po' duro, diciamo, verso le 4 di mattina, però il gioco vale la pena. Beh, io preferisco il tramonto, Ne vale la Leandro. Andro, tu lavora e non ha tempo. va bene, ragazzi, allora, perché, vabbè, in effetti voi avete ragione, in India si dice che l'ora più bella è quella dell'alba, quando la notte aleggia ancora nell'aria e il giorno non è ancora pieno, quando la distinzione fra tenebra e luce non è ancora netta, e per qualche momento l'uomo, se vuole, si sa fare attenzione, può intuire che tutto ciò che nella vita gli appare in contrasto, il buio e la luce, il falso e il vero, non sono che due aspetti della stessa cosa. Sono diversi, ma non facilmente separabili. Sono distinti, ma non sono due. Come un uomo e una donna, che sono sì meravigliosamente differenti, ma che nell'amore diventano uno. E wow, questo è il nostro meraviglioso wow. Tiziano Terzani, un altro giro di giostra. Grazie Rossella per averlo ce l'ho fatto scoprire. Bellissimo Leandro, ci hai fatto che voce, ci hai fatto emozionare, ma possiamo che dirlo. Poeta, ragazzi, veramente. E io direi che questa breve tratto che ci ha letto Leandro è diciamo la conclusione migliore per la nostra trasmissione, perché io direi che alla fine ci si becca, ci si acchiappa, come diciamo noi in Sicilia, però alla fine se gli uomini senza le donne, le donne senza gli uomini non trovano il loro completamento, non trovano la loro dimensione, il loro equilibrio perfetto, ed è proprio questa la magia, il fatto che alla fine uomini e donne sono due mondi diversi, ma si completano. E questa è una cosa che non si può spiegare con le ricette, con le parole, con i grandi esperti, è solo una cosa che è dovuta all'amore, un sentimento che non possiamo controllare. Si vede che love is in the air. Ecco, quella doveva essere forse la canzone di chiusura. Ragazzi, grazie mille di essere stato in studio con noi, è stato veramente un piacere. Aspetta, volevate fare dei saluti, Chiara? Sì, io volevo fare un saluto particolare a mamma e papà, mamma Gabriella e papà Corrado, e anche alla nonna Franca. Ah, li salutiamo anche noi, perché l'abbiamo conosciuta. Ciao. Esatto, visto che li conoscete, in particolare perché mi hanno scritto una mail, anche loro sono molto tecnologici, dicendo non sapevamo che gliel'avessi data a Buca per 3 settimane prima di uscire con lui. Hai visto, non si finisce mai di imparare. A me me l'ha data a Buca anche per 7 mesi, quindi va bene. C'è di peggio, vedete. La perseveranza è il ma in Lamponia c'è un nostro radioascoltatore che ci chiede, Roberto Di Rienzo chiede, ma in Lamponia possono andarci le fragole? pensiamo di sì. Commenta grande Roberto. Un bacio, allora ne approfitto per dare un bacio a Roberto e Caterina, e a questo punto do un bacino alla mia sorellina e alla mia piccola nipotina Giulia, e faccio tanti auguri alla mia grande amica Sara, che oggi fa il compleanno. E l'abbiamo fatto al compleanno. E io faccio gli auguri a mia sorella Daphne, che ieri ha fatto il compleanno. Olè! Tanti auguri. Qualcun altro offre qualcosa? Siamo figli unici, non niente fratelli. Niente sorelle, mamma e papà l'abbiamo Però, salutati. Un saluto anche a Rita, che ci ha dato una grande ciao, mano. Ciao mamma. Ciao Rita. Benissimo. Ciao. E allora... Ciao ragazzi. Ci sentiamo ben presto. Innanzitutto... Sì. avremo modo di farci gli auguri di Natale la prossima puntata, lunedì prossimo, quindi vi lasciamo in sospeso. Puntata, la prossima settimana, diciamolo subito, sarà una puntata estremamente speciale e quindi vi invitiamo tutti ad ascoltarci. Per quale motivo? Prossimo... Perché tutte le equipe dei Colori dell'Anima saranno insieme a darvi gli auguri di Natale. Esatto, noi, quindi seguiteci. Tutti. Ciao ragazzi dei Colori dell'Anima. E vi lasciamo con queste parole: supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale. Olè. Io avrò Bella. Cura di te. Io sì, avrò cura di te. E insomma, penso che non c'è bisogno di presentazioni. Vi lancio la cura di Battiato. Ciao a tutti ragazzi, grazie ancora a Chiara e Matteo. Ciao.